in primo piano. Buona giornata da Mauro Meazza, benvenuti alla nostra rassegna stampa. Vediamo come le notizie che abbiamo ascoltato anche nel GR condotto dalla collega Anna Migliorati trovano spazio eco nei quotidiani in edicola questa mattina. Ovviamente le tensioni dal punto di vista politico sono tra i titoli più gettonati, sono tra i titoli preferiti per dare spazio nelle prime pagine. Prendiamo ad esempio il Messaggero: Berlusconi scontro sull'amnistia, il centrodestra rilancia ma il Partito Democratico chiude, è indecente. Il Cavaliere riunisce i suoi, mi vogliono in galera. Appoggiato dal Colle, Letta spinge le riforme per tutelare il governo e dice il PDL non staccherà la spina. Sempre sul Messaggero la notizia della ennesima scoperta da parte della Guardia di Finanza di persone che usufruivano di assegni di sostegno, falsi poveri, finta invalidità, truffa allo Stato da 1,5 miliardi. Dall'inizio dell'anno denunciate 8.000 persone, 51 gli arresti. E poi la strage, la crisi, l'emergenza siriana, l'emergenza medio orientale, con l'estensione al Libano, Libano strage nelle moschee, bombe all'ora della preghiera. Dice il Messaggero nella sua prima pagina. Via il Porcellum, una riforma elettorale che garantisca governabilità, è l'auspicio con cui viene titolato l'editoriale di Giovanni Sabatucci, editoriale che quindi riprende le tematiche politiche ma si concentra sull'aspetto, come dire, della necessità di una riforma della legge elettorale. E le questioni politiche, come vi dicevo, sono poi declinate nei modi più diversi sui maggiori quotidiani oggi in edicola. Il Corriere della Sera dà ampio spazio con una foto e un titolo nella parte alta della sua prima pagina alla crisi in Medio Oriente e all'intervento di Obama. Obama studia scelte sulla Siria, questi il termine ripreso anche con virgolette per appunto cercare di decifrare che cosa il presidente americano abbia inteso dire. 1 milione di bambini profughi, ricorda il Corriere della Sera in prima pagina la notizia appunto di questa crisi, di questa tragedia umanitaria, rimbalza un po' su tutti i giornali tra le prime pagine e quelle interne. Al centro però torna d'attualità, torna in evidenza la politica. Vertice PDL sulle sorti del governo è il titolo, quindi quello che succederà. Potrebbe succedere nella giornata di oggi, ve ne daremo conto naturalmente come sempre nei nostri GR qui su Radio 24, sul nostro sito www.radio24.it e sul sito del nostro giornale www.ilsole24ore.com. Che succederà in questo vertice? Fissato per oggi ad Arcore il vertice del PDL con Silvio Berlusconi, in discussione c'è il destino del governo Letta. Tensione tra i partiti, slitta lunedì il Consiglio dei Ministri, come avete sentito probabilmente nella giornata di ieri, da mezzogiorno circa il Consiglio dei Ministri si è aggiornato tecnicamente, quindi di fatto congelato fino al pomeriggio di lunedì. Il lunedì poi che aprirà una settimana abbastanza cruciale sia per il governo sia soprattutto per i nostri conti, per i conti nazionali e anche per le nostre tasche, perché dovranno essere prese proprio nella prossima settimana le decisioni delicatissime per quanto riguarda il pagamento dell'IMU, nonché le altre questioni economiche e fiscali che incombono, appunto, come ad esempio il congelamento dell'IVA, che però ha efficacia solo fino alla fine di settembre. Anche sul Corriere della Sera una vicenda di truffe. La grande truffa dei ticket sanitari, una esenzione su due è illegale, avverte il Corriere della Sera in prima pagina. E poi nella parte bassa della prima pagina la resa del numero 2 di Bill Gates, quindi l'annuncio dell'uscita da parte di Ballmer, Steve Ballmer, che ha annunciato la sua uscita da Microsoft, decisione molto importante, coinvolge come sappiamo una delle aziende più importanti dal punto di vista mondiale. Il titolo vola in borsa, ricorda il Corriere, questa sorta di abituale, peraltro, cinismo dei mercati. Quando c'è un avvicendamento al vertice, ci si aspettano, se i mercati si attendono nuovi investimenti, si attendono svolte strategiche e quindi sono portati a dare fiducia. E quindi questo fa sì che spesso le dimissioni, le uscite di scena dei leader, dei massimi vertici di aziende molto importanti a livello mondiale, siano salutate con dei rialzi consistenti in borsa. È successo, appunto, questo è successo anche ieri per il titolo di Microsoft. Noi torniamo invece alle prime pagine dei giornali. Il Secolo XIX, quotidiano di Genova, sceglie allo stesso modo la notizia politica e la notizia dell'emergenza umanitaria in Medio Oriente come evidenze maggiori. Berlusconi, il PD dice no all'amnistia, è quello che avverte, ciò che avverte il titolo del Secolo XIX in prima pagina, che poi si completa con slitta il decreto sui tagli e si trova 1 miliardo per la cassa integrazione, che, come ricordiamo, è da finanziare. Ma in prima pagina, con grande evidenza nella parte destra, la foto di una bambina e il titolo 1 milione come lei, Siria addio, un fiume di bambini ha lasciato il paese in fiamme, l'ONU alza la voce sulla strage con i gas, Obama prende tempo, questo titolo che quindi è meno possibilista rispetto a un intervento da parte degli Stati Uniti di quanto abbiamo visto sul Corriere della Sera. Su Avvenire, questa stessa notizia dei profughi, della catastrofe umanitaria, su Avvenire è ripresa con grandissima evidenza e diventa il titolo principale. 1 milione di piccoli esuli, i bambini prime vittime della guerra, 7.000 gli uccisi, moltissimi costretti a fuggire oltre confine. Obama che dice nessuna azione senza il mandato ONU. In Siria catastrofe umanitaria e poi giallo sulle armi chimiche, non si riesce ad appurare come sia effettivamente l'uso delle armi chimiche, se ci sia stato o meno. I minori, avverte sempre il quotidiano Avvenire, i minori sono la metà dei profughi siriani, per sopravvivere sono fuggiti in Libano, Giordania, Turchia, Iraq o Egitto, cercano di guadagnare qualcosa vendendo mercanzie, se non ci riescono si prostituiscono, le ragazze finiscono nella rete delle nozze combinate. E il presidente americano Obama che reagisce alle accuse sulla strage del sarin, appunto le accuse rispetto all'uso dei gas, non possiamo certo attaccare da soli. Dalla prima pagina di Avvenire vi segnalo ancora un'altra notizia su cui magari torneremo nella seconda parte di questa rassegna stampa. I giovani dicono addio alla televisione, il primo cellulare arriva a 9 anni, il lavoro di Giacomo Gambassi che ha consultato il libro bianco dell'autorità delle comunicazioni, come cambia appunto il nostro rapporto con la televisione. La notizia è che i nativi digitali, come si chiamano, cioè i giovanissimi che sono nati già con internet presente stabilmente nelle nostre vite, hanno un consumo televisivo decisamente ridotto, sostanzialmente 1 ora contro le 3 ore invece dei loro genitori o dei loro nonni. Questo dalla prima pagina di Avvenire. E poi ancora questioni politiche su Repubblica, i ministri PDL che dicono no alla crisi, quindi le spaccature interne al PDL. Vedremo, come vi dicevo, questo vertice di Arcore di oggi cosa porterà, quali determinazioni porterà. Lupi che dice ci sono altre strade, dal titolo di Repubblica, oggi mega vertice ad Arcore. Franceschini riunisce i colleghi di governo pronti a fare scudo a Letta. Berlusconi, scontro sull'amnistia e il PD che dice proposta indecente. Anche qui scelta della fotografia anche per Repubblica per segnalare il 1 milionesimo profugo bambino, la tragedia siriana, 7.000 uccisi. Davvero c'è stato bisogno di questa soglia psicologica, come si dice, del milione, del 1 milionesimo profugo per alzare le attenzioni da parte della comunità internazionale tutta, non solo e non tanto da parte dei media, sulla tragedia in Siria. Il ritorno di Bill Gates per salvare Microsoft e quindi l'uscita di Ballmer è il titolo della parte laterale della prima pagina di Repubblica, ma che poi ci segnala con un richiamo interessante il Viagra del lavoro. È boom in Germania per produrre di più dell'uso di appunto sostanze dopanti, ci si dopa per lavorare di più, per fare di più. Su Repubblica, e non solo su Repubblica, nella prima pagina si segnala questa privatizzazione degli incidenti stradali. Ora qui lasciatemi dire con un certo orgoglio, è una notizia data ieri dal Sole 24 Ore, l'utilizzo di strutture private, di società private, nella rilevazione degli incidenti stradali, quindi in sostituzione ad esempio dei vigili urbani per la rilevazione. L'ha segnalato ieri Sole 24 Ore, la misura è contenuta in un disegno di legge che però verrà esaminato in questa seconda parte del Consiglio dei Ministri che si terrà lunedì prossimo. Lo segnala su Repubblica Fabio Tonacci in prima pagina, altri quotidiani riprendono questa notizia che, come vi dicevo, con un certo orgoglio è stata data per prima dal Sole 24 Ore ieri. E allora vediamo cosa scrive il Sole 24 Ore di oggi. Il titolo principale è: per la scuola assunti 12.000 docenti, ma sui precari il governo è diviso. Il pacchetto della pubblica amministrazione, cosiddetto pacchetto PA, è stato rinviato a lunedì. Patroni Griffi dice: l'accordo tecnico-politico c'è. Tensioni tra PD e PDL sulla stabilizzazione degli statali e sull'agenzia per i fondi UE. E poi il taglio dell'IMU incombe, appunto, come vi dicevo, la decisione. Bisognerà trovare un modo per uscire da questa impasse politico-economica, appunto, altrimenti al 16 di settembre tocca andare a pagare questa prima rata per la prima casa, scusate il gioco di parole, che è stata sospesa. Per il taglio dell'IMU spunta l'ipotesi IVA, lo segnala il Sole 24 Ore, lo segnala Marco Rogari. Viene in aiuto l'extragettito che sarebbe originato dai pagamenti della pubblica amministrazione, l'extragettito IVA, che quindi servirebbe per non farci più pagare l'IMU sulla prima casa. Attualmente, come sapete, è solo congelata. E poi sempre all'interno, nelle pagine interne, una grande grafica per spiegare tutte le idee, le possibili modifiche, i possibili interventi, appunto, per cambiare l'IMU, per non farlo più pagare o per farlo pagare decisamente poco o a pochi sulla prima casa, un lavoro condotto da Saverio Fossati. Una notizia che non sta su altri quotidiani, sta sul Sole 24 Ore: il Tesoro prepara la nuova Tobin Tax, la Tobin Tax, tassa sulle transazioni finanziarie introdotta dal governo Monti. Con polemiche, anche l'Europa ha allo studio una forma di Tobin Tax, l'Italia ha, come dire, agito per prima, questa imposta, che dovrebbe debuttare nelle nostre tasche il 16 di ottobre, è stata di nuovo riportata, come dire, in cantiere, appunto da una consultazione Lampo, come avverte il Sole 24 Ore, su una bozza di decreto. Quindi verranno probabilmente introdotte modifiche, presumibilmente nel mese di settembre, e intanto c'è questa prima scadenza che incombe. L'Europa arriverà con una sua Tobin Tax, una tassa, appunto, sulle transazioni finanziarie, se ce la farà entro il 2014, non prima, non certo in questi mesi. Piazza Affari chiede un rinvio, segnala infatti Maximilian Cellino: le borse non gradiscono questo tipo di imposizione, peraltro, appunto, un po' in anticipo rispetto a quelle che sono e saranno le decisioni comunitarie, le decisioni europee. Scuola via libera 12.000 assunzioni è anche il titolo delle pagine interne sul Sole 24 Ore, e le perplessità sugli ausiliari privati riprendono, appunto, è un titolo per riprendere la notizia che vi dicevo ieri, cioè la privatizzazione delle rilevazioni degli incidenti stradali, data ieri dal Sole 24 Ore. Oggi Maurizio Caprino ritorna per segnalare, appunto, che su questa misura c'è una certa perplessità, nulla di fatto del Consiglio dei Ministri, che comporta anche, appunto, il rinvio della privatizzazione nella rilevazione degli incidenti. La scuola occupa la quasi intera terza pagina, le misure sulla pubblica amministrazione della scuola occupano quasi interamente la terza pagina del Sole 24 Ore, oggi in edicola. Vediamo in quest'ultimo minuto, prima di passare la linea alle informazioni meteorologiche, qualche altra prima pagina, almeno per estrema sintesi. Sul Giorno tornano in grande evidenza le tematiche politiche. Amnistia è subito rissa, qui il riferimento è, appunto, una delle possibili soluzioni per l'impasse della maggioranza e l'impasse sulla questione Berlusconi è quella dell'amnistia, ma è subito rissa. L'ipotesi accende lo scontro, avverte il giorno, il PDL incalza, il PD fa muro, proposta indecente. Berlusconi super vertice ad Arcore, D'Alema scarica Letta e tifa Renzi. Anche sul giorno scuola via 12.000 assunzioni e poi la partenza del campionato con una foto dedicata a Balotelli, protagonista perché ieri ha stuzzicato, come si dice, i tifosi veronesi. Vi presento un bresciano, appunto giocando sulla rivalità tra le due città. In primo piano. Bentornati, bentornati a questa seconda parte della nostra rassegna stampa. La politica è il grande protagonista delle prime pagine dei giornali di oggi. Vediamo proprio quelle testate che sono più vicine ad l'uno o all'altro schieramento, come scelgono di spiegare, di illustrare gli avvenimenti degli ultimi giorni e quello che potrebbe accadere oggi con questo vertice appunto ad Arcore. L'Unità dice amnistia altolà a Berlusconi, il centrodestra le prova tutte, Partito Democratico selle scelta civica contro, è una proposta indecente. Poi è sempre dalla prima pagina, il PDL punta i piedi, rinvio sugli statali, quindi questa impasse verificatasi ieri al Consiglio dei Ministri con il varo solo di alcune misure, quelle che riguardano la scuola e non di altre misure del cosiddetto pacchetto destinato alla pubblica amministrazione, viene segnalato e letto in chiave politica dalla prima pagina dell'Unità. Il PDL punta i piedi, rinvio sugli statali, slitta la regolarizzazione dei precari per, virgolette, obiezioni tecniche. Via libera, annuncia l'Unità, all'assunzione di 11.000 insegnanti, auto blu tagliate. E poi quel che resta del calcio per appunto segnalare l'avvio oggi del campionato. Anche sulla prima pagina dell'Unità la strage degli innocenti, cioè la vicenda dei profughi siriani e i 7.000 minori uccisi, 1 milione in fuga, il 75% di questo milione a meno di 11 anni. Dall'Unità al Manifesto, che parla di contagio libanese, quindi la Tripoli in fiamme, 42 morti, oltre 500 feriti per l'attentato più grave dai tempi della guerra civile, colpito due moschee sunnite al termine della preghiera del venerdì. Per il Libano è la guerra civile. Al centro dello scontro, a distanza tra Iran e Arabia Saudita, il paese è spaccato tra sostenitori e oppositori del regime siriano di Assad, quindi la crisi siriana che si estende anche al Libano. Questo è il titolo principale del Manifesto, che poi dà spazio anche alle vicende politiche. L'amnistia non trova spazio, Berlusconi spera nel Senato, così il Manifesto. Per il giornale, naturalmente, tutt'altra ispirazione e tutt'altra lettura delle questioni politiche, Letta ha i giorni contati, questo è il titolo. Maggioranza in bilico, D'Alema lo scarica, punta su Renzi, il governo paralizzato anche sugli statali, in dubbio la manovra sull'IMU. E poi amnistia, il PD già in campagna elettorale chiude le porte. Questa la lettura appunto del giornale, che poi ci segnala con una grande foto che ci sarà un processo civile, partirà a gennaio, ai danni di Ingroia, trascinato in tribunale, cioè che vedrà trascinato in tribunale Ingroia perché accostò Forza Italia alla mafia. Questo ricorda la prima pagina del giornale. Invece su Libero un'altra una lettura sempre diciamo vicina al centrodestra naturalmente, ma che prende spunto da una notizia che diversi giornali ospitano anche nelle pagine interne. I sondaggi spingono Berlusconi al voto, la soluzione politica non si trova, dice Libero, e malgrado la condanna il centrodestra è largamente in testa per tutti gli esperti, ma bisogna azzeccare il messaggio elettorale, questo avverte Libero, che poi appunto a pagina 3 spiega con anche una tabella come i sondaggisti abbiano avvertito che oggi vincerebbe Silvio. Gli istituti confermano il trend di crescita per il centrodestra già rilevato prima di Ferragosto. La sentenza aiuta il capo del centrodestra. Per SVG il vantaggio è di 5 punti, per la Ghisleri di Euromedia di 3 punti, per Piepoli di 1 punto. Una crisi di governo, avverte sempre il titolo di Libero, sposterebbe ancora più voti. Quindi non sembra, almeno a giudicare dai sondaggi, e ripeto, questa notizia Libero la dà con grande evidenza, ma la ritrovate poi anche nelle pagine interne di molti altri quotidiani, non sembra che la vicenda giudiziaria stia nuocendo, stia danneggiando dal punto di vista del consenso elettorale Silvio Berlusconi, anzi sembra trovare quasi un nuovo slancio proprio da questa condanna. Sulla vicenda dei sondaggi è interessante confrontare in qualche modo la pagina di Libero con Il Messaggero. Il Messaggero riprende pure questa notizia nelle pagine interne e la titola così: Cav agli arresti guadagnerebbe voti. Secondo i giornalisti, Berlusconi in campagna elettorale contro le toghe e la sinistra motiverebbe i suoi sostenitori. E per quanto riguarda invece l'altra parte dello schieramento politico, nel PD Renzi è il più amato ma sale la popolarità di Letta. Movimento 5 Stelle mantiene solo lo zoccolo duro, il 10% in libera uscita. Questo dicono i sondaggi. C'è poi anche una rassegna, appunto, che riporta Euromedia, ISPO e IPR Marketing, quindi gli stessi sondaggisti che vedevamo citati, che vi segnalavamo citati da Libero. Ancora dalle prime pagine che non abbiamo visto c'è Il Fatto Quotidiano ha anche il titolo politico, era abbastanza prevedibile: amnistia, ultima vergogna per salvare il condannato. E poi il sommario, che di tono sarcastico: ogni giorno ne pensano una nuova, ora tocca ai ministri Cancellieri e Mauro rispolverare un provvedimento collettivo di clemenza che, con la scusa di risolvere il problema carcerario, ha come obiettivo una grazia ad personam. No di Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Sinistra Ecologia e Libertà e Scelta Civica. Questo è il titolo principale del Fatto Quotidiano, che sta sulle questioni politiche ancora nella parte di mediana della sua prima pagina. Crisi di nervi nel Partito Democratico, Letta gelido con Massimo D'Alema, è il Max da cui fa riferimento il titolo. E poi anche la Serie A che riparte con il solito copione. Allora, visto che c'è questa attenzione per la Serie A, vi segnalo alla prima pagina la Gazzetta dello Sport, la ripartenza del campionato, che viene salutata dalla Gazzetta dello Sport con un titolo: solo calcio, grazie. Tra nuovi arrivi e vecchi pericoli si ricomincia. Gli occhi sono tutti su Balotelli che stuzzica, si legge, e per Tevez e i campioni, quindi la Juventus, c'è subito un tranello. I riferimenti sono per le partite Verona Milan, oggi si gioca alle 6, e Sampdoria Juventus, che si giocherà alle 20:45 per questa sera. L'editoriale di Andrea Monti segnala che appunto il solo calcio grazie è riferito innanzitutto alle grandi occasioni per essere smentiti, come scrive, o per cominciare a vincere tutti insieme al di là delle fedi e delle bandiere. La vigilia di Verona-Milan si è caricata di cupi presagi, qualche tweet di troppo, qualche parola di troppo, allarme rosso, mobilitazione generale. La festa per il ritorno in Serie A degli scaligeri potrebbe trasformarsi in un'odiosa esibizione di cori e atteggiamenti razzisti. Quindi l'auspicio di Monti e della Gazzetta dello Sport è che invece questo non accada, che ci sia un, come scrive Monti, discrimine tra tifo e razzismo, e un discrimine semplice. Non serve un approfondito esercizio di civiltà giuridica per individuarlo anche nella bolgia di una curva. Più oltre L'editoriale ci ricorda che questo è il primo anno del fair play finanziario, quindi in qualche modo della correttezza obbligata nei conti delle società di calcio. Non dimentichiamolo, il calcio italiano cerca più virtuosi equilibri, aprendo a scenari sino a ieri impensabili. E poi appunto si ricorda il passaggio da Moratti all'extraterrestre Tohir, che si annuncia come primo romanzo di fantascienza nel pallone. Vi segnalo che anche sul Sole 24 Ore un lavoro di Marco Bellinazzo e Maria Luisa Colledani è proprio intitolato alla partenza del campionato, con la circostanza appunto che questo sarà il campionato del fair play, che ci avvierà verso il fair play finanziario. Fra taglio dei costi e lieve incremento dei ricavi, scrive il 24 ore, nel 2012 i conti sono migliorati di 150 milioni, è il lavoro di Marco Bellinazzo. E poi l'Udinese, che avrà uno stadio di proprietà, è l'altra novità segnalata sul Sole 24 ore di oggi. Questo per quanto riguarda la partenza del campionato. Vi segnalo qualche altra notizia, vi dicevo del Viagra del lavoro, l'abuso di medicinali dopanti per produrre di più, che viene raccontata da Andrea Tarquini su Repubblica. Nella Germania dell'efficienza arriva il Viagra del lavoro per i dopati della produttività. L'uso in ufficio cresce del 400%, ma aumentano le malattie. Rinforzare questa denuncia, questa segnalazione, è il fatto che, come avverte lo stesso Tarquini nel suo articolo, l'allarme viene da un quotidiano che è liberal conservatore e filo Merkel, il quotidiano Die Welt. Quindi dice: non è qualche media o associazione alternativa, non sono No Global o di sinistra alternativa a dare questo messaggio. Era questo abuso di farmaci dopanti per produrre di più, per riuscire a tenere il ritmo della produzione, i ritmi accelerati della produzione, era il tema di apertura della prima pagina di ieri su Die Welt. E secondo i calcoli della più importante cassa malattia pubblica tedesca e delle altre principali mutue statali, dal 2002 al 2012 il consumo dei Viagra del lavoro è aumentato di una cifra da capogiro tra il 300 e il 400%. Questo trovate nelle pagine interne su Repubblica, appunto questa tentazione di far ricorso a farmaci, tentazione in realtà oramai tendenza acclarata di fare ricorso a farmaci, perlomeno in Germania, per poter tenere ritmi produttivi sempre più elevati. Un'altra notizia da pagine interne, ma con una sua importanza: trasloco biblico in Cina per far ripartire l'economia, è un lavoro di Enrico Verga presentato da Libero. Ci sono 250 milioni di cinesi che hanno deciso di traslocare nei prossimi 10 anni. In vero, spiega Verga, la decisione è stata gentilmente suggerita loro dal governo. Perché? Perché questa rapida urbanizzazione di massa, perché si tratta di sostenere le opportunità per compagnie di costruzioni, trasporti pubblici, fabbriche di prodotti per uso domestico, spezzando il ciclo chiuso dell'autarchia economica che esiste nelle aree agricole. Questo viene spiegato nell'articolo di Verga. Quindi ci sarà questa sostanziale deportazione, come scrive poi lo stesso titolo di Libero, di 250 milioni di contadini nelle città per trasformarli, dice Libero, in consumatori compulsivi, ma questo potrà creare solo enormi sacche che di povertà, è l'ammonimento di Libero. E poi le notizie di cronaca invece che riguardano il gondoliere, prendiamo al Corriere della Sera: indagato il gondoliere dello scontro a Rialto, aveva preso cocaina. L'accusa è di omicidio colposo. E allora questa era la nostra ultima segnalazione. Io vi ringrazio soprattutto Paolo Corleoni, che questa mattina mi ha assistito in regia e ha reso possibile questo programma. Ora la linea va alla nostra rassegna stampa Europa, e poi alle 8 ritornano le notizie del giornale radio con Anna Migliorati. Vedremo come questo vertice di Arcore, cosa porterà in dote questo vertice di Arcore, quali decisioni, quali indicazioni per la durata del governo, che, ripeto, al di là delle questioni politiche, ci interessa anche per le decisioni economiche che possono riguardare la vita di tutti noi. Da Mauro Meazza l'augurio di una buona, ottima giornata.